Al-Fajr, l'alba. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wal-fajr. Per l'alba. Walayalin 'ashr. Per le 10 notti. Wash-shaf'i wal-watr. Per il pari e per il dispari. Wal-layli idha yasr. E per la notte, quando trascorre. Hal fi dhalika qasamun li dhi hijr. Non è questo un giuramento per chi ha intelletto? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Non hai visto come il tuo Signore ha trattato gli Ad? E i Ram dalla colonna. Senza eguali tra le contrade. E i Samud che scavavano la roccia nella vallata. E Faraone, quello dei pali. Tutti costoro furono ribelli nel mondo. E seminarono la corruzione. E il tuo Signore calò su di loro la frusta del castigo. In verità il tuo Signore è allerta. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quanto all'uomo, allorché il suo Signore lo mette alla prova onorandolo e colmandolo di favore, e gli dice: il mio Signore mi ha onorato. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Quando invece lo mette alla prova lesinando i suoi doni, egli dice: il mio Signore mi ha umiliato. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. No, siete voi che non onorate l'orfano. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Che non vi sollecitate vicendevolmente a nutrire il povero. وَتَأْكُلُونَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. E divorate avidamente l'eredità. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. E amate le ricchezze d'amore smodato. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. No, quando la terra sarà polverizzata in polvere fine. E verranno il tuo Signore e gli angeli schiere su schiere. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. In quel giorno sarà avvicinato l'inferno. In quel giorno l'uomo si rammenterà. Ma a cosa gli servirà rammentarsi? يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Dirà, ahimè, se avessi mandato avanti qualcosa per la mia vita futura. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. In quel giorno nessuno castigherà come lui castiga. ولا يوثق وثاقه أحد. E nessuno incatenerà come lui incatena. يا أيتها النفس المطمئنة. O anima ormai acquietata. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ritorna al tuo Signore soddisfatta e accetta. فادخلي في عبادي. Entra tra i miei servi. وادخلي جنتي. Entra nel mio paradiso.